Oggi andiamo a scoprire una magagnetta che si cela dietro a una grande canzone, una delle ballad più belle della storia del rock, Angie dei Rolling Stone. Sapevate a chi era dedicata nello specifico a questa canzone? L'ipotesi 1 presupponeva che Angie fosse il cocker di proprietà di Mick Jagger, morto pochi giorni prima della stesura della canzone. Ai ai ai, ipotesi anche suggestiva, ma sbagliata. Dai, era intuibile che questa fosse sbagliata. Passiamo invece a due possibilità concrete di persone, di donne realmente esistite, ovvero Anita Pallenberg era la soluzione numero 2, compagna di origini italiane del chitarrista Keith Richards. È forse lei Angie? Beh, in un certo senso devo dire sì. O sì o no? Eh sì, allora Anita Pallenberg è lei, la persona alla quale è stata dedicata Angie. Chi era Anita Pallenberg? Era una bellissima donna, bellissima ragazza che tra l'altro indecisa, insomma, sì, un po' sì, se li è fatti tutti. Le cronache raccontano che è stata legata principalmente a 3 membri del gruppo Rolling Stone. Beh, uno non gli bastava. Mi pare che membri sia a sproposito, adesso una tiratina d'orecchia alla redazione. Iniziò con Brian Jones, che incontrò nel 65, poi passò a Keith Richard nel 67, con la quale ebbe una lunga relazione e ben 3 figli, mi permetta di ricordarlo, sì. E concluse le storie d'amore con i Rolling Stone anche con un breve flirt addirittura con Mick Jagger durante le riprese del film Performance. Fu proprio Anita Pallenberg, raccontano le cronache, con lei a cui fu dedicata Angie. Mentre la soluzione numero 3, e abbiamo il colpo di scena, mio caro Freak, ovvero la possibilità che Angie fosse dedicata ad Angela Bowie, moglie del buon David Bowie, e che la canzone fosse riferita ad una ipotetica orgia a 4 fra lei, David Bowie, Mick Jagger e l'allora moglie di Mick Jagger, è un rumors. Non ci sentiamo di dire che è sbagliata. Esatto, è un pettegolezzo, un gossip. Un gossip che chi gira? Lo sa, chi lo sa. Forse giusto, forse sbagliato. Certo, non era la risposta esatta. Se avete sbagliato, comunque, non deprimetevi. Era giustina. Era quasi esatta. Si vocifera. Palo, traversa. Traversa, ma non gol. Se non avete segnato, continuate comunque a restare sintonizzati con Pane, Burro, Rock and Roll. time we said goodbye. Meravigliosa ballad targata Rolling Stone. Che capolavoro, ragazzi. E oggi, grazie al test attitudinale, avete anche scoperto a chi è dedicata, chi è la famosa Angie. Ultimi minuti di diretta, ultima mezz'ora, ultimi 25 minuti di diretta, dove continuo. Saluto tra tutti Felipex da Pisa, alla tenera età di 27 anni e senza saper suonare manco il flauto. Ieri mi sono preso un basso e ho cominciato a suonare. Riuscirò? Ma! Intanto me li date 2 punti sulla patente, Felipex, certo che te li diamo, ed è così che vogliamo i radioascoltatori, vi vogliamo tutti rock. L'importante è crederci, ragazzi, e fidatevi di Mr. Granchio, detto anche l'Ariele. Proseguiamo con la grande musica, così facciamo contenti anche Christian da Firenze. Oh, finalmente qualcuno che se la prende con noi in una schiera, in miriade di SMS. Siete inutili, fate festa, i vostri discorsi frivoli sono solo tempo rubato alla musica. Christian, ascoltati una radio dove non parlano. Tipo, ce ne sarà in giro qualcuna, no? Non so, si troverà, smanetta un po'. Intanto, Supertramp, Dreamer. long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would dei Beach Boys, dal capolavoro Pet Sound, God Only Knows. 8 e 45 minuti primi. Quest'oggi ho paura che facciano saltare l'appuntamento con la cartolina postale, ma perché vorrei addentrarmi in uno di quegli argomenti dove sarebbe meglio non addentrarcisi, perché non ne so nulla, però è questo forse il bello di Pane, Burro e Rock and Roll: parlare di cose che non sappiamo. È un po' di giorni che aleggia nella nostra redazione questa cosa della smorfia napoletana, cioè ci sarebbe piaciuto in qualche modo consigliare dei numeri, arrogarci il diritto di farlo, anche se, ripeto, non ho mai giocato all'otto in vita mia. Chiamo in aiuto un radioascoltatore che di queste cose un po' di più ne sa. Si chiama Carlo, ha una tabaccheria. Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll, Carlo. Bene, sei qui a Milano tu. Posso chiederti nel classico della radiofonia di abbassare un filo la radio? Oh, erano anni che sognavo di dire questa cosa. Allora, Carlo, tabaccheria qui vicino a Milano, mi spiegavi che il giorno per giocare il lotto oggi è giusto. Martedì e sabato. Giustamente, via mail, lui mi propone i suoi di numeri. Cercheremo di darli in base a quello che è accaduto nella puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Oggi cardine della trasmissione è stato il lampione, come si chiamava? Esatto. No, ma voglio ridire il termine crepuscolare, rampione crepuscolare. Allora, ho controllato sulla smorfia che c'ho anch'io, comprata all'autogrill, la smorfia napoletana, 2,50 euro l'ho pagata tipo, e crepuscolare non c'è. Esatto. Allora, per chi volesse giocare il lotto, Carlo, che ne sa, vi propone vai. Sì, perfetto. Sì. Ah. Il carcere. Quindi tu scegli due numeri in base alle immagini che abbiamo inventato questa mattina e uno in base al numero dell'orario che effettivamente ci azzecca. Guarda, tra l'altro bisognerebbe anche decidere se poi vinciamo, si smazza o ognuno si tiene la sua. Come funziona nel lotto solitamente? Però bisogna mettere... Esatto, c'è un amico via SMS che scrive: ma cosa fate? No, i numeri del lotto non è rock. Ma va quel paese, va, Roxy. Aspetta, voglio farlo anch'io però. E io dedicherei una tripletta a Jimi Hendrix. Qui, quindi farei Mancino 90, che è anche la paura, se non ricordo. Oh, quante ne so che so che il 90 è la paura. Poi metterei negro, perché Hendrix era nero, quindi 9. Non esiste il termine nero, esiste negro nella smorfia. Arrabbia, esatto. E poi, visto che ci tengo a dare il numero napoletano, farei anche O Muerte, che è il 47. Nello specifico, però, visto che abbiamo lanciato questa cosa che forse è morto perché gli hanno fatto bere il vino, farei O Muerta Cis, spero di averlo detto bene, che è il 62. Quindi la mia è 90 9 62. Oh Carlo, ci tieni tu aggiornato? Mi dici tu, perché io non li gioco, a me non me ne frega niente, però voglio vedere se li azzecco. Metti che li azzecchiamo, poi mi metto a giocare anch'io, tranquillo. Dov'è la tabaccheria che facciamo pubblicità? Aspetta, abbiamo anche l'amico napoletano che propone 19 o miracolo. Ma perché? 9 il mese, 3 il giorno della settimana. Boh, l'ha fatto così. Vediamo. Grazie caro, a presto. Ciao. Quello che facciamo a pane, burro e rock and roll è tutto rock, si sappia. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. A volte è importante focalizzare quello che avviene in giro per il mondo, sa mio caro Freak, perché? Perché? Me lo chieda. Perché è importante focalizzare quello che avviene in giro perché per il mondo? Perché a volte basta poco a scoprire che c'è gente messa ben peggio di voi e anche ben peggio di noi. Ben peggio di tutti. Ben peggio di tutti quanti. Il ringraziamento va come ogni giorno alla lacre redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Bravi. Nella persona di Isaac. Esatto. Stegista sfruttato dalla cattiva Pane, Burro e Rock and Roll. Non pagato, mal pagato, comunque impagabile. Andiamo, impagabile. Se le va a Tijuana. Sì, laddove... Welcome to Tijuana. Ah, bel pezzo. Tequila, sexo e marijuana. Era bello. Manu, ciao, ciao. Bravo, brevissima, sì. Citazione colta da pochi, penso. Vada a leggere L'ansia in ansia, grazie. Laddove scopriamo che la realtà supera la fantasia. Eh sì. Tijuana, Messico, come già detto, un bambino messicano è stato battezzato e registrato all'anagrafe. Sì. Con il nome di Yahoo. Che senso? Come? Beh, come il celebre portale. Ma su no. Internet. Lei ha presente, sì, Yahoo. Sì. Google, esatto. Google, Yahoo. Come se un radioascoltatore chiamasse suo figlio RadioRockFM.com. Esatto. O Google, Google. Vieni qua, Google. Esatto. Google. No, insomma, è un po' impressionante. I genitori, infatti, hanno scelto questo nome perché si erano conosciuti sulla rete. Ovvio, e questo è coerente. È un po' terribile, ma coerente. Guarda che questa cosa di dare nomi strani è patetica. Guardi che però non è una moda nuova. In che senso? Beh, l'Emilia e la Romagna soprattutto, devo dire, ha già dato molto in questa tendenza. In che senso? Al riguardo, perché ha sempre avuto la tendenza a cavalcare nomi strani, firmato, stellato. Complimenti alla Romagna. Alla Romagna, sì. Sa che già che ci siamo, io le leggerei un'altra notizia a riguardo nomi strani, nomi particolari. Sì. Mi trasferirei a Caracas, Venezuela. C'è mai stato? Ahimè, no. No, nemmeno io. Superman, senta qua, Kennedy, Mao Lenin, Hitler, Chapulin o Hiroshima non potranno più essere scelti come nomi per i neonati del Venezuela. Per fortuna, aggiungo io. Certo. Il divieto sarà operativo se verrà approvato un progetto di legge promosso dal presidente Chavez, che proibisce la registrazione di nomi che espongano al ridicolo, stravaganti o di difficile pronuncia. Guardi, bravo Chavez. Guardi, in questo caso devo dire, laddove la repressione può fare del bene. Io che mi picco di essere profondamente democratico, su questa cosa però non ho dubbi. Il nome? Un po' di repressione fa bene. Perché questi nomi sono assolutamente ridicoli ed importabili. Credo che potranno creare anche degli shock ai bambini, dei problemi. Quanto resisterà alla nascita del suo primogenito maschio a chiamarlo Antonio Antoni? O Antonio Mao Lenin? Preferiva o Hiroshima. Mi rifiuto. Guarda, mio figlio è una bomba. Nel senso che l'ho chiamato così? Hiroshima. Mio figlio è una bomba, Hiroshima. Scusi, ero distratto. Straordinario. Fermiamoci qua. Mio figlio, che si chiama Hiroshima, è una bomba. Bomba. È una fantastico. Battuta straordinaria. Grazie. Tra The Jam in the City, ragazzi, l'ultimo brano di quest'oggi, una giornata incredibile, 12ª puntata, martedì 18 settembre che archiviamo, questa novità dei numeri dell'otto, in molti l'avete presa male, in molti l'avete presa bene, vado a pescare per parità, non è che mi diventi come il tipo che dà i numeri dell'otto tutto fighetto che devi chiamare con l'899 a 5 euro a risposta. Spero di sì, ti dico solo questo. Rock o non rock, se sbanco il lotto, embe che c'è, qui non faccio più la mutua. Domani. Non è rock vendere i numeri vincenti, ma i nostri sono perdenti, quindi è rock. Bravi, mi piace questo spirito. Mi piace lo spirito con il quale affrontate pane, burro e rock and roll. My lonely friend is the end. È la fine. 8:58 minuti primi. Caro Spadino, lanciami la sigla. Ci risentiremo domani. Io non li gioco i numeri, ragazzi, perché non ho tempo né voglia. Però se li giocate voi, un po' a me me ne date, eh? Pane, burro e rock and roll. Secondo me è giusto così. La tua colazione rock. Tracu, tracu, tracu, tra. Pane, burro e rock and roll. Tra, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Che giornata! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Una buona giornata al collega Marco Garavelli. Buona giornata! Che giornata oggi, guarda. Mi sa che svengo adesso, vado di là a svenire con Frick. Ti capisco. Senti, avrei da ricordare, vorrei fare lo spazietto solito e fattacci del DJ Ariele. Ok. Scusa se rubo tempo a te. Vabbè. Venerdì questo sono da qualche parte in Toscana, in questa inaugurazione di un... Aspetta, cerco la mail per dirla vai, giusta, Garavelli. Prepara, prepara. Ormai mi conosci. Si chiama Charlotte, dalle parti di Corle Salvetti, dal vivo Goodfellas. Poi ci tengo la prima presentazione ufficiale della patente da vero rocker. Fine mese? Che forse c'è. Domenica 30 settembre, Cascina Mollue, Milano. I toscani già dicono, quando vieni a fare in Toscana? La faremo anche in Toscana, fatecela presentare a Milano, poi veniamo in Toscana. Beh, se venite alla festa del esatto, radio, esatto, esatto. La festa del compleanno radio. E però lì siamo ancora a Milano, grazie. E però è sabato, molti si stanno già organizzando domani per venire, è un scuola, evento particolare. Garavelli, la sai sempre lunga, bravo! Ti lascio il microfono di Rock FM. Bene! Abbiamo inaugurato anche il Lotto Rock, va fa ormai, guarda, vai, vai. Siamo allo sbando. Ci si sente domani, sempre se non moriamo, alle 7 precise. Ciao!